meio que está entregada. Caguando as tortas zica, as tortas bicha. Senti de bueno, c'è vidi de mumone. Nem mulo Federico. Chama na doi. Já. Che oscuro di la mezzanotte ti dica non veni, ma quando una scistorta sta taglietto ti conviene. Ti futti la giornata, intanto ci guadagna su e nulli cazza, culi sempre ma non tra la mano vanno. Che oscuro di la mezzanotte ti dica non veni, ma quando una scistorta sta taglietto ti conviene. Ti futti la giornata, intanto ci guadagna su e nulli cazza, culi sempre ma non tra la mano vanno. La sveglia sta suona, calore è arrivata, già tocca a ma do c'è nutata. Se solo ci penso mi viene l'uscita, è stato lo mio, a farci disfietto la capo. Mi togli l'uso e non mi fotti, ma c'è giornata, sono ancora lì. Sette mila puliti e mi faccio la scrima, e l'ora non vedo cuscura e champion. Arrivata che l'ora si chiama fatia, voto lì cristiana è una cosa mi piace. Ci lavo lì cotta, ci lavo lì cruda, ma già lo sapia che non era giornata. Una mano mi cazzo, la scala si spezza, come utere guai e poco pazienza. Pioggia shooter, ma già stato giù il crago, senza care manio col caso. Ha ragione amico mia, una brutta giornata staria, e quando la vece arrivare, è meglio che mi metto a cantare. E allora sta giornata la più di pietto, mi tocca solo con mio zutiro lietto. Ma siccome stanno sempre lì problemi, sto attento, lo saccio che mi conviene. Non faccio manco a tempo cuo su di casa, careto a me la porta già si sta basa. Poi mi ricordo che li chiama già scirrati, e già ziccamo con i primi gli astimati. Tra la macchina, tra su e mentù la prima, e mi ritorno che non cedi la benzina. Non ci posso uscire innanzi cussini, fino a stasera ci sappi quanti casini. Più scuro di la mezzanotte ti gigano bene, ma quando una scistorta sta taglietto ti conviene. Ti futti la giornata, intanto ci guadagna su e nulli cazza, culi sempre ma non tra la mano vanno. Più scuro di la mezzanotte ti gigano bene, ma quando una scistorta sta taglietto ti conviene. Ti futti la giornata, intanto ci guadagna su e nulli cazza, culi sempre ma non tra la mano vanno. E io in mezzo alla campana sta sonna, mi sento e speriamo che mi viene buona. La fame è arrivata, mozzica a mangiare, maglia alla porcina si mette a regnare. La pasta salata, lo pane tostato, la carne bruciata, Milone mannato. Scontiamo la banca contro la staria, piamo lì fiera, torniamo a fatia. Arranfa e ramponi è quasi scuruto, la capo non passa qua serve in aiuto. Mi chiamalo un mimmo che vuole un po', mi lavo e mi vesto e mo vengo di più. Non la faccio più, io a te come asciuta, speriamo che crai e buona giornata. Simono picca ma stiamo una dientica, quella di oggi è stata evidente. Non ne parliamo di questa giornata, è nata storta e spicciata. Ma quello tempo che arrivo a fatia, che già è in inferno la vita mia. Pronto a lufi la rupi fin di mari, una bella burrasca qua se me sa fare. Aspetta e spera e aspetta che mo spicciami la fame, ma già su nata la satizza. I giovani non ci ha già visto spicciare, e a casa me l'ha già avuta a tornare. Amico mio accetta già di giri di la satizza, manna zucca di gigiri. E pilla raggia lo stomaco mo mi doli, quando ti dico ancroci sti do paroli. E speriamo che fa buona grammatina, Federico piccia la macchina e cammina. Io cammino ma dopo, seguo dalla strada di Romare che non sbaglino. Ci stanno gli sperrico, tanto la disgrazia ne ziccate e non li lassano. Matto sacchia lo pipo, la vespa nell'assato mienza lì campagni di nato. Sai che picca bueno sto, io grammi sto burcato, senza mai senza però. Più scuro di la mezzanotte ti gigano bene, ma quando una scistorta sta taglietto ti conviene. Ti futti la giornata, intanto ci guadagna su e nulli cazza, culi sempre ma non tra la mano vanno. Più scuro di la mezzanotte ti gigano bene, ma quando una scistorta sta taglietto ti conviene. Ti futti la giornata, intanto ci guadagna su e nulli cazza, culi sempre ma non tra la mano vanno.